100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Deborah Rosciani. Il 2015 parte con i riflettori ben puntati sui mercati finanziari. Il catalizzatore delle attenzioni è come sempre Mario Draghi, già ispiratore per tutto il 2014 dei corsi dei mercati. In un'intervista al quotidiano tedesco Handelsblatt, il presidente della BCE ha fatto capire che stanno aumentando le probabilità di un'operazione di grandi dimensioni di quantitative easing, cioè di acquisto di titoli di Stato dei paesi dell'Eurozona in difficoltà. All'Euro Tower di Francoforte sono già in corso preparativi tecnici per mettere a punto l'operazione, che sarà annunciata in tutta probabilità nella riunione della Banca Centrale Europea del 22 gennaio. Musica per le orecchie degli operatori che, confortati dalla promessa di arrivo di nuova liquidità, nella seduta di venerdì hanno ripreso ad acquistare a piene mani soprattutto titoli obbligazionari. Lo si è visto dallo spread fra BTP e Bund, che ha aggiornato il nuovo minimo portandosi a 125 punti base, con il rendimento del titolo decennale all'1,75%. Ancora più netto il rally dei titoli spagnoli, con i bonus che hanno sfondato al ribasso il livello dei 100 punti base di spread con il Bund. In fermento anche il mercato valutario, l'euro viaggia ai minimi dal 2010 sul dollaro. Vediamo i temi da monitorare nel corso della settimana. Abbiamo l'inflazione di molti paesi dell'Eurozona, naturalmente il dibattito politico sulle elezioni greche politiche anticipate, l'inarrestabile discesa del prezzo del petrolio, la crisi russa. Venerdì prossimo arriva la disoccupazione americana di dicembre. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. Vorrei parlarvi del primo appalto dell'anno per il bilancio dello Stato, quello per i rotoloni di carta del tipo che noi usiamo comunemente in cucina e chiamiamo in gergo gli Scottex. Il Ministero della Difesa li ha pagati 17 euro l'uno, pari a 34.000 euro nel complesso, come recita la Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio. Chiunque frequenti un supermercato sa bene che quel prodotto costa meno di 2 euro e anche le bobine professionali si aggirano intorno ai 10. Tutto sommato è poca cosa, ma se moltiplichiamo questo sistema poco oculato per circa 32.000 centri di acquisto delle amministrazioni pubbliche e per i circa 100.000 dipendenti pubblici che oggi hanno diritto di firma sugli ordini, capiamo bene perché non si riesca a far calare la montagna degli altri 140 miliardi di acquisti e beni, per beni e servizi che fa oggi la pubblica amministrazione. È una fetta consistente degli 800 miliardi di spesa pubblica annua complessiva ed è l'unica comprimibile di fatto, perché il resto è destinato a stipendi e pensioni. Una strada però c'è: centralizzare gli acquisti in modo che la famosa siringa possa costare uno a Bolzano e uno a Catania, senza svariare, con margini di differenza anche del 100%. Una ricetta semplice che aumenta la possibilità di controllo e di efficienza. Per questo era stata creata dall'allora ministro Carlo Azeglio Ciampi la Consip, la piattaforma unica per gli acquisti della pubblica amministrazione. A fatica però, superando resistenze vischiose e tenaci, quell'istituzione è riuscita a centralizzare direttamente più o meno 14 miliardi di appalti. È ancora poco, visto che non appena si procede per quella strada i risparmi riscontrabili sono del 20% in media. Non credete anche voi che si potrebbe fare qualcosa di più? Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.